La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, bentornati qui alla Quota Rosa, un argomento questa mattina che abbiamo già trattato varie volte ma che continuiamo a denunciare. Essere sexy è più importante che avere talento, personalità e intelligenza. Badate bene, non stiamo parlando di donne adulte, ma stiamo parlando di bambine dai 12 ai 14 anni, ragazzine, adolescenti, insomma l'età dove ancora ai tempi antichi si giocava con le bambole, oggi invece tutto quanto è relativo al proprio aspetto fisico, a quanto si è seducenti in un avanzamento dell'età adulta che non ha riscontro nel passato. Allora, per parlare di questo abbiamo con noi il professor Maurizio Tucci, responsabile comunicazione della Società Italiana di Pediatria. Buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice. Buongiorno. Buongiorno. Ci raggiungeranno anche Alessandra Mussolini e Anna Maria Serafini. Allora, iniziamo da Maurizio Tucci. Lei ha realizzato uno studio su 1120 ragazzi tra i 12 e i 14 anni e non solo si denuncia questo comportamento, essere sexy è più importante di essere intelligente oppure di avere talento, ma anche il 21% ha dei comportamenti a rischio, come ubriacarsi, avere rapporti non protetti. Insomma, c'è un'età adulta che si anticipa rispetto al passato. Questo senz'altro sì. Io conduco con la Società Italiana di Pediatria questa indagine ormai da 12 anni e abbiamo visto che in 12 anni c'è stata un'evoluzione in questa direzione. Adesso dire che le ragazze considerino solo diciamo l'aspetto estetico forse un po' esagerato. È vero che l'attenzione che si dà e che danno in questo momento a riprodurre un modello che poi è un modello che molto spesso viene veicolato proprio dai media è un dato oggettivo, quindi un'attenzione a apparire adulti che certamente anche solo 7, 8, 10 anni fa noi non riscontravamo. Io mi ricordo che ci si vestiva da bambini, ci si vestiva da adolescenti, adesso io vedo queste ragazzine di 12-14 anni che sono vestite da adulte con pantaloni a vita bassa, tacchi, trucco, non è un po' eccessivo? Guardi, c'è anche un altro dato, che adesso anche le persone di 50 anni si vestono da ragazzini. C'è un po' una confusione, non gettiamo soltanto la croce sugli adolescenti, ci sono gli adolescenti che cercano di fare gli adulti e gli adulti che cercano di fare i ragazzini, quindi diciamo che i ruoli si sono un po' smussati. Indubbiamente le ragazze sono portate a imitare quello che vedono e quello che vedono è una società dove apparentemente l'aspetto fisico, la seduzione sono le cose che danno i più facili vantaggi e quindi ci si realizza molto spesso attraverso questi strumenti. Ora noi siamo tutti quanti convinti che la società attuale è anche questo, ma non solo questo. Il problema è che gli strumenti di comunicazione che le ragazze, ma vale anche per i ragazzi, utilizzano in questo momento enfatizzano proprio questo aspetto, cioè l'aspetto di considerare la seduzione come una delle cose più importanti che esistono. Ma basta vedere anche la pubblicità. Tutta la pubblicità rivolta alle ragazze, anche alle bambine, quindi anche la pubblicità dei giocattoli eccetera, è tutta orientata sul discorso della seduzione. La femmina, tra virgolette, deve essere seducente. Certo, rispetto a quello che succedeva anche 15-20 anni fa, dove non voglio chiamarli valori, ma i comportamenti erano diversi, è un bel salto. Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice. L'infanzia non esiste più? Ma io direi che mi spiace di essere proprio di un'opinione molto molto diversa, no, assolutamente non contraria, nel senso che integro i dati dei pediatri, che tra l'altro sono proprio i medici fondamentali nella vita dei ragazzini, dall'attesa fino, io direi anche fino ai 18 anni, quindi è interessante questa continuità dello studio, ma penso proprio diverso. L'infanzia e l'adolescenza ci sono per fortuna per i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti di oggi, perché c'è l'obbligo della scuola, quindi prima l'infanzia e l'adolescenza non c'erano, nemmeno la preadolescenza, i figli delle persone abbienti potevano studiare, c'erano dei tempi eccetera, ma la stragrande maggioranza delle persone, pensiamo ai nostri nonni, persino ai nostri genitori, io magari parlo da persona già adulta, ma in tempi soltanto 60-70 anni fa i ragazzini andavano immediatamente a lavorare e la loro speranza era diventare subito grandi, subito adulti, quindi la scuola ha dato un'infanzia, una preadolescenza e un'adolescenza ai ragazzi e naturalmente insieme da nido a nido le prime lezioni per imparare a volare, quindi la famiglia ti dà una serie di input ai modelli giustamente che ricordava il professore, il collega Tucci. Tipo, lei sta dicendo, in passato c'era tipo Oliver Twist, il bambino che lavorava nella fabbrica. Guardi, ha citato, guardi, stupenda, mi ha tolto il titolo, c'erano gli Oliver Twist della situazione senza famiglia, le immagini diciamo dei ragazzi, perché poi molte delle storie letterarie sono ahimè di bambini orfani, cioè orfani significa senza modello, perché crescevano di corsa ma con modelli solo adulti, devo diventare grande il più presto possibile perché comunque devo lavorare e c'è bisogno in famiglia, ed erano braccia i bambini più che bambini. Adesso io direi che è vero, le preadolescenti, e poi come potrebbe essere diverso visto tutto quello che vedono, giustamente è una società immersa nei media, siamo immersi nel virtuale, quindi è chiaro, arrivano messaggi, arrivano modelli, arrivano pubblicità, arriva tutto, però attenzione, nella preadolescenza si fanno delle esperienze come se si tornasse a rivivere l'infanzia, si ricominciano, cioè adesso faccio da 10, 11, 12, 13 anni, rimielinizzo il cervello e rifaccio tutta una serie, per una parte, di esperienze che sono, ahimè, di rischio, di imitazione, di esplorazione, e qui però, attenzione, e gli adulti sono quelli che dovrebbero contenere tutto questo, c'è la famiglia, c'è la scuola, ci sono le istituzioni, c'è una possibilità di dare tutta una serie di modelli che sono non solo quelli degli adulti, diventa subito adulta, ma godi di questo passaggio che è un dono che c'è, perché prima i bambini non ce l'avevano, quindi io mi ricordo che a 11, 12, 13 anni cominciavano gli innamoramenti, a 14 cominciava il desiderio di scoprire trucchi che per i miei tempi erano assolutamente vietati, i primi appuntamenti, cioè c'era chiaramente con il clima di quel tempo, c'erano le canzoni, c'erano le emozioni, c'erano è chiaro che ogni età le esprime, ogni tempo le esprime in un certo modo, questo è un tempo che è mordi e fuggi, prendi subito tutto, consuma immediatamente, cambia, è chiaro che i ragazzini fanno, ahimè, quello che fanno i tempi, quello che fa certa nuova tecnologia che non è della quale loro sono espertissimi, sanno usare i new media, tutte le nuove tecnologie in maniera incredibile, però non hanno un accompagnamento sentimentale a tutto questo, che è un'educazione sentimentale alla quale gli adulti a scuola dovrebbero condurli. Allora, io la interrompo perché ci ha raggiunto l'onorevole Anna Maria Serafini del PD, vicepresidente della Commissione Infanzia. Noi abbiamo preso spunto dal professor Maurizio Tucci, che ha fatto un'indagine per la Società Italiana di Pediatria per i bambini dai 12 ai 14 anni. È molto facile, un 21% dice, di assumere dei comportamenti a rischio, come ubriacarsi, avere addirittura rapporti non protetti. Nella sua esperienza come deputata che si occupa dei problemi dell'infanzia, vede un'anticipazione dell'età adulta, oppure, come suggeriva Maria Rita Parsi, nell'Ottocento era anche peggio perché c'era Oliver Twist, David Copperfield che doveva andare in fabbrica a lavorare, quindi i bambini poi alla fine non avevano un'infanzia. Senza dubbio ogni epoca ha avuto un certo tipo di approccio nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi se affrontiamo, quindi nel lavoro precoce oppure in mancanza di scuola, una vita assolutamente vissuta insieme agli adulti, no? Però oggi diciamo ci troviamo di fronte a una situazione nella quale diciamo i ragazzi sono messi a disposizione, si sono messi in un contesto che a differenza del passato li sollecita diversamente, Pensiamo solo che in pochissimo tempo i ragazzi vivono in un contesto in cui i media sono a disposizione tutti. I media sono il rapporto con il mondo, sono il rapporto con tutte le attività umane, con tutte le esperienze, in ogni momento, in ogni punto della giornata, e quindi questo cambia tantissimo il rapporto anche dei ragazzi con la vita e cambia anche diciamo il modo in cui l'educazione o come concepiamo l'educazione possa avere un influsso su di loro, perché prima c'era la famiglia e la scuola, oggi il contesto dove i ragazzi vivono, crescono con tutti i media a disposizione cambia radicalmente. Quindi diciamo lei sta sostenendo il fatto che i bambini sono anche bombardati di cose. L'indagine è promossa da pediatri, non ho sentito Tucci ma ho visto l'indagine, si nota assolutamente ormai da molti anni un influsso diretto dei mezzi di comunicazione di massa sulla vita dei bambini. Basti pensare agli spot pubblicitari per esempio sul cibo. Noi siamo il paese che emana il doppio degli spot rispetto agli altri paesi europei, ma siamo il paese che nell'arco di 10 anni è diventato il paese col tasso più alto di obesità infantile, per esempio. Quindi attenzione a non pubblicizzare troppo le merendine. Io penso che per esempio i media potrebbero svolgere una funzione assolutamente indispensabile per, oltre che la scuola, per educare un'alimentazione corretta e sana, però anche sul resto, per esempio c'è un contrasto molto grande. Noi abbiamo fatto un'indagine proprio finita pochi mesi fa, tra il contrasto che esiste tra influenza dei media sulla vita dei ragazzi e scarsa presenza nei media di programmi adatti a loro. Con i pediatri, per esempio, abbiamo discusso a lungo una delle questioni forse da affrontare. I bambini hanno diritto a cure pediatriche fino ai 14 anni, ma 14 anni, dai 14 ai 18, che è un'età diciamo molto delicata anch'essa, non possono essere solo diciamo considerati adulti. La quota rosa. E abbiamo sentito poco prima della pausa l'onorevole Anna Maria Serafini del PD che dice giustamente, dal punto di vista da deputata, le cure pediatriche per i bambini sono solo fino a 14 anni. Il professor Maurizio Tucci che cosa risponde e che cosa propone? In effetti l'area pediatrica viene considerata fino al completamento dello sviluppo psicofisico di un individuo, quindi teoricamente arriva ai 18 anni. Questo non significa che necessariamente un pediatra debba seguire tutti i ragazzi fino a 18 anni, però ci sono l'abbandono repentino, magari a 12 anni, in alcuni casi anche prima, del pediatra per passare al medico dell'adulto, a volte può creare dei problemi, anche perché comunque il pediatra è più abituato ad avere a che fare con le problematiche di un soggetto che sta evolvendo. C'è il professor Roberto Burgio, che credo sia considerato in Italia forse il pediatra di maggiore esperienza e più rappresentativo, ama spesso dire che l'adolescente eredita il bambino che era. Diciamo che i pediatri probabilmente sono quelli che più facilmente riescono a cogliere i segni di questa eredità e quindi ad avere un rapporto anche dialogico più facile con gli adolescenti. Quindi cure fino a 18 anni. Un altro aspetto, professor Tucci, almeno questo è quello che proponiamo noi e siamo d'accordo con l'onorevole Serafini. Dobbiamo anche dire che l'onorevole Alessandra Mussolini del PDL, presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, non poteva essere con noi oggi perché noi, come al solito, nella Quota Rosa cerchiamo sempre di chiamare un rappresentante della maggioranza, un rappresentante dell'opposizione, ma non stiamo parlando di problemi dove ci sono divisioni politiche, spero, onorevole Serafini, almeno, no? No, dovremmo, anzi, noi dovremmo sempre le maggiori leggi che abbiamo fatto nel nostro paese in questi anni per i bambini, le abbiamo fatte cercando la convergenza di tutto il Parlamento. E quindi lei rappresenta oggi un po' tutto il Parlamento. Allora, un altro aspetto, e qui veniamo a un aspetto che sembra più leggero, però è anche connesso a questo fatto che si diventa adulti prima o si diventa adulti prima adesso rispetto agli anni 50, ma non rispetto al 1800, come ci diceva Maria Rita Parsi, è il fatto che le bambine non giocano più, per esempio, con bambole tipo Barbie, ma con delle bambole che hanno dei lineamenti che sembrano quasi un po' ritoccati dalla chirurgia estetica. Maria Rita Parsi, questo pure è un motivo di preoccupazione oggi? Le ragazzine non giocano tanto più con le bambole quanto giocano, per esempio, con i videogiochi, dove ci sono i personaggi di alcuni giocattoli che vengono venduti, che sono anche bambole, che sono anche la moderna immagine di tanti cartoni animati che vengono veicolati dai mass media, che poi diventano dei giochi. Quindi quello che succede è che bisogna essere al tempo con i tempi e quindi comprendere i nuovi codici, perché se i bambini, come dice Cantelmi, sono nativi digitali, quelli che nascono ora, cioè nascono con una velocità, una capacità di comprendere nuove tecnologie, nuovi modi di esprimersi, è chiaro che poi noi rimaniamo senza questa alfabetizzazione, quindi un po' meno capaci di comunicare con loro, un po' meno capaci di comprendere anche le fantasie, perché è come un immaginario prigioniero. Oggi per parlarsi tra amici si chatta anche se stai nello stesso cortile. Io ricordo di essere stata educata con sceneggiati, con film, che avevano contenuti talmente rivolti ai ragazzi e specifici per i ragazzi, per cui forse va ricreata proprio questa condizione culturale e che unisca un progetto comune per tutti. Certo, però io qui leggo che le brats, bambole allusive, sguaiate, truccatissime, con le caviglie svitabili, per accessoriarle di zatteroni, sempre più trash e con labbra che sembrano già ritoccate dal chirurgo plastico. Poi ci sono anche le Winx, fenomeno italiano, di maghette, eccetera, che sono così sottili ed efebiche fino a resentare l'anoressia. Bisogna stare attenti. Anna Montana ha le gambe lunghissime, se una bambina adolescente ha le gambe un po' più corte si ammazza. Allora, Anna Maria Serafini, PD, vicepresidente della Commissione Infanzia, questo veicolo pubblicitario bisognerebbe controllarlo un pochino di più? Ma guardi, senza ombra di dubbio, io credo che lo diceva la dottoressa Margherita Parsi, che è anche la presidente del Movimento Bambino, quindi che ha una sensibilità doppia, diciamo, quella che attiene alla sua competenza e anche una sensibilità culturale e politica verso i diritti dei bambini e benessere dei bambini molto grande. Ecco, ormai è matura, infatti abbiamo fatto un lavoro di alcuni anni, e matura ormai una proposta che riguardi sia la pubblicità sia come organizzare programmi nel settore pubblico e privato, perché c'è una responsabilità comune che dobbiamo avere verso l'educazione e il benessere dei bambini, e vediamo che noi qui ancora non ci siamo né nella proposta che avanziamo per i programmi per i ragazzi né nel tutelarli sia dall'essere considerati ragazzi consumatori sia anche da quando entrano nel mondo dello spettacolo. Quindi c'è un campo molto grande che attiene anche al simbolico, che va assolutamente preso in considerazione. E poi sulla scuola noi abbiamo avuto molte titubanze a introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. Oggi ho visto che alcuni paesi, no, in alcune indagini, alcune preoccupazioni in Inghilterra, in Francia, si dice che non è l'educazione soltanto sessuale che è molto limitativo, è proprio l'educazione al rapporto. Stavo pensando mentre lei parlava, perché c'è un libro molto carino di Tom Perrotta che si chiama L'insegnante di astinenza sessuale, perché è tutto quanto basato poi sul laicismo e sulla religiosità vissuta in maniera molto radicale e fondamentalista negli Stati Uniti, e proprio c'è questo insegnante che a un certo punto deve insegnare, non si sa più se deve insegnare astinenza sessuale oppure se deve insegnare educazione sessuale, quindi è molto difficile questo ragionamento che lei sta facendo. No, però è anche vero che proprio perché la tecnologia che oggi nel cui i ragazzi sono immersi è molto potente e che è chiamata anche però tecnologia della solitudine dei ragazzi, no? Perché amplia le conoscenze, amplia moltissimo la possibilità di contatti tra virgolette astratti e diminuisce i rapporti reali e responsabilità reali verso se stessi e gli altri, ma anche il piacere di stare con gli altri, no? Quindi è potenziare la capacità emotiva e affettiva dei ragazzi. Quello che diceva Maria Rita Parsi, cercare di aggregarli. Aggregare, poi guardi, oggi il concetto di povertà si intende non solo quella materiale o culturale, ma si intende proprio anche sempre più anche quella affettiva, emotiva, relazionale. Allora, trovare il modo per poter discutere anche dell'importanza della relazione, anche delle mille gamme emotive deve essere, cioè noi in qualche misura diamo più importanza a cose esterne che sono strumentali, importanti, che ci consentono di vivere meglio in modo materiale, di avere più sicurezza nella salute, ma diamo scarsissimo rilievo a ciò che invece è decisivo, che fa una parte consistente dell'armonia con se stessi e con gli altri, che è quello delle gambe e delle relazioni emotive, come si sta in una relazione, sia amicale, sia in classe, sia nel lavoro, sia di amore. I bambini, io ragazzi, almeno dalla mia esperienza, vedo che diciamo quei modelli di riferimento non sono più quelli del passato, e in una realtà molto mobile di incontro con altre civiltà, in un mondo che è uno, bisognerebbe porre attenzione a questo, non è da sottovalutare. Lei poi parla come mamma anche, no? No, non sono mamma, però ho molti nipotini e quindi sono circondata anch'io sempre anche da bambini, quindi, ma poi comunque questo... Lei poi diceva una cosa giusta, povertà emotiva, sì. E io direi anche povertà culturale molto spesso, sì. Onorevole sì, Serafini. Senza dubbio, per però diciamo noi diamo anche all'accezione culturale spesso un concetto cognitivo di raccogliere diciamo cognizioni, no? Conoscenze, invece ha a che fare molto la ricchezza emotiva con quella culturale, perché poi si va al senso della vita, al senso dell'uomo, un uomo che avesse tutto e fosse incapace di articolare le proprie emozioni o conoscere se stesso, cioè questo è già un limite gravissimo alla sua potenzialità, alla sua capacità di vivere. Sentiamo allora, chiudiamo con il professor Maurizio Tucci, che cosa bisogna fare per arginare questo problema, cioè il 21%, ricordiamo, di un sondaggio che lei ha fatto di ragazzi tra i 12 e i 14 anni, è propenso ad assumere comportamenti a rischio. Insomma, come guidare questi ragazzi in questa fase preadolescenziale? Io sottolineerei una cosa, che comunque la propensione al comportamento a rischio è comunque tipica dell'età adolescenziale. Questo avviene oggi, avveniva in passato. Da questo punto di vista l'adolescente è portato a rischiare. Il problema maggiore è qual è la soglia del rischio. E questo è quello che a cui dobbiamo stare attenti. 20 anni fa probabilmente fumare una sigaretta di nascosto era già la trasgressione per l'adolescente, era già il rischio. Oggi a volte sono i genitori che comprano le sigarette ai figli dicendo almeno gli compro le sigarette e non prova la droga o qualcos'altro. Quindi si è alzata o abbassata, secondo da come la vogliamo vedere, questa soglia del rischio, e questa è una cosa preoccupante. Io sono d'accordo con la senatrice Serafini, il problema è quello dei modelli. Oggi probabilmente la famiglia è un po' carente a rappresentare un modello che sia un modello alternativo a quello che propongono i media. Quindi non c'è un bilanciamento dall'altra parte. I ragazzi sono probabilmente forse troppo soli e anche il discorso dell'adultizzazione, la differenza fra l'adultizzazione di Oliver Twist citato prima e oggi è che nell'Ottocento l'adultizzazione era l'acquisizione del senso di responsabilità che aveva l'adulto. Il bambino dell'Ottocento diventava adulto, acquisiva le responsabilità dell'adulto, lavoro in primis. I ragazzi di oggi acquisiscono la parte edonistica, la parte estetica dell'essere adulto, tant'è che quando noi chiediamo qual è il motivo per cui vuoi essere essere, vorresti essere più grande dell'età che hai. Nessuno dice per uscire dalla famiglia di origine, per cominciare a lavorare, per avere un'indipendenza economica. No, loro stanno benissimo a casa e non c'è più il conflitto generazionale, perché i genitori sono eccessivamente disponibili ad accettare i loro figli così ad accettare le pretese dei loro figli. Che cosa fare? Io sono convinto che recuperare da parte dei genitori quella funzione genitoriale che non dico completamente, ma si è vogliamo dire attenuata, per usare insomma, i genitori devono essere un po' più presenti, questo in sostanza, professore. Un po' più genitori, un po' più, se vogliono fumare, no, non possono fumare, divieti, un pochino più di divieti. La quota rosa. Non so se è un argomento propriamente femminile, però insomma un pochino ci sta anche nella quota rosa, anche perché oggi il 14 febbraio è la festa degli innamorati, almeno quello che in America soprattutto viene considerato il giorno degli innamorati. E noi vogliamo capire però le origini di questa festa, e le origini partono da Terni, perché San Valentino è il patrono della città umbra, e abbiamo con noi al telefono Paolo Raffaelli, sindaco di Terni da 10 anni. Quindi fra un po' che diventa San Valentino lei, sindaco? No, San Valentino è una presenza per la città di Terni talmente imponente, significativa, da non poter essere oscurata da nessuna presenza umana. È il primo vescovo della città di Terni, martire del III secolo, una figura importantissima sia sotto il profilo della fede ma anche sotto il profilo dei valori umani. Qui a Terni, insieme a Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo della diocesi, e come dire, lo abbiamo sempre letto come una figura che tiene insieme, e il premio San Valentino che anno dopo anno consegniamo tiene fede a questi valori, tiene insieme sia l'amore tra i ragazzi, l'innamoramento dei giovani che si incontrano e che mettono insieme una famiglia che spesso dura per tutta la vita, ma nello stesso tempo anche l'amore, il dialogo fra i popoli, fra le culture, fra le etnie, le fedi diverse. Quindi San Valentino come santo che, diciamo, protegge sia il dialogo, la scoperta affettiva delle persone, soprattutto dei giovanissimi, ma anche e soprattutto la solidarietà, la vicinanza, la comunanza, il reciproco riconoscimento dei popoli e delle culture. Per capire un attimo l'origine, come San Valentino diventi poi tutto un tratto anche il protettore degli innamorati e poi diventi addirittura una festa, la festa degli innamorati, abbiamo con noi Claudio Corvino, antropologo, autore del libro nero delle streghe Newton Compton Editori, ma anche di storie e leggende di Babbo Natale e la Befana, insomma un antropologo che si occupa proprio di queste cose. Allora, chi è San Valentino e come diventa la festa di San Valentino? Come si trasforma nella festa degli innamorati? Beh, diciamo subito che San Valentino è, come molti altri santi, frutto anche di fusioni e confusioni sia di personaggi santi, appunto, sia di caratteristiche. San Valentino fondamentalmente è stato fuso e confuso con San Valentino di Passau, che si festeggiava il 7 gennaio in Germania, ed è il protettore degli epilettici, cioè coloro che in un certo senso hanno perso la testa a causa della luna, e sono due elementi che combaciano perfettamente con gli innamorati, quello che poi diventeranno i protetti da San Valentino, appunto. Cioè, insomma, coloro che perdono la testa a causa della luna in qualche modo vengono equiparati come i protetti da San Valentino. Quindi a quel punto diventano anche gli innamorati, e da lì si innesca questa confusione, diciamo, che poi però fa sì che San Valentino sia il protettore degli innamorati. Sì, ma anche perché c'è già un sostrato, diciamo, del periodo che contribuisce a febbraio, a parte le varie tradizioni che gli uccelli si accoppierebbero, pensano, nei paesi anglosassoni, nel 14 febbraio, ma anche e soprattutto perché a febbraio nelle culture contadine si combinano i matrimoni, cioè si fanno i matrimoni che sono già stati combinati durante le lunghe pause invernali e dove i genitori decidono appunto chi si deve sposare e con chi. Abbiamo sentito appunto il parere dell'antropologo, ma Don Filippo Di Giacomo, che è il nostro conduttore del cielo in una frase ed è un interno oramai di Radio 24, lei contesta come sacerdote questa festa un po' pagana oramai? Dunque, nella chiesa di San Valentino a Terni risiedono i frati carmelitani scalzi dal 1578, credo. Io ho avuto il piacere di incontrare chi era parroco negli anni 40, quando Terni fu liberato dagli inglesi, si chiamava padre Michele Mazzocchi, e ho il racconto della sua meraviglia quando vide due ufficiali inglesi che venivano a visitare la tomba di San Valentino, perché San Valentino era il protettore degli innamorati. Il parroco di Terni fino a quell'anno, credo che fosse il 44, non lo sapeva. Cioè, in realtà qui abbiamo, non per contraddire l'antropologo, ma se abbiamo, diciamo così, la curiosità, la pazienza di andare a leggere gli atti notarili precedenti 1803, noi troveremo in tutta Europa la curiosa consuetudine di leggere atti notarili dove l'incipit era sempre l'invocazione ad un santo. Per esempio, gli atti notarili romani venivano iniziati con l'invocazione nel nome di San Pancrazio, a Lucca che so, nel nome del Santo Volto. Quei contratti matrimoniali che in Inghilterra e in Irlanda avevano vigore e che venivano così stipulati giustamente nelle culture contadine verso febbraio, avevano l'invocazione in nome di San Valentino. Quindi in realtà, diciamo così, fino al 43, al 44 neanche i ternani sapevano che San Valentino era il protettore dell'amore. Ah, ecco, poi quindi, il grande culto è iniziato. Quindi è un culto anglosassone, dice lei. Sì, poi dopo poi il grande culto è iniziato negli anni, fine degli anni 70, quando un pochettino esploso, si è generalizzato. E ho il ricordo dell'allora vescovo di Terni, Monsignor Gualdrini, che dopo la ricognizione delle reliquie esclamò davanti a diversi preti: beh, almeno sappiamo che San Valentino era maschio. Che vuol dire che nella memoria anche, diciamo così, della agiografia cristiana sono, credo, tre Valentini, i vescovi, di cui si hanno memorie in passioni medievali e che sono, diciamo così, seppelliti tra il quartiere Flaminio e Terni, sulla via Flaminia. Paolo Raffaelli, sindaco di Terni da 10 anni, quindi il suo 10° San Valentino e il suo ultimo come sindaco, perché poi non si potrà ricandidare. Però le chiediamo che cosa farà a Terni, ci saranno delle piccole manifestazioni, magari avverrà che qualche turista anglosassone, come suggeriva Don Filippo, arriverà e vorrà andare sulla tomba di San Valentino? San Valentino è una figura che sintetizza benissimo una città che è stata città operaia nel momento in cui, è stato giustamente ricordato, si riscopre San Valentino come santo degli innamorati. Era precedentemente città prevalentemente contadina, quindi con una forte incidenza delle tradizioni dell'agricoltura, dei costumi dell'agricoltura sul vissuto culturale delle e San Valentino a un certo punto, lei prima poneva il problema della deriva, come dire, commerciale di San Valentino. Uno dei temi che noi abbiamo sempre tenuto in viva attenzione qui, in questo decennio di celebrazioni valentiniane, che sono anche molto impegnative, con tanti concerti, con un investimento significativo del comune, con tante manifestazioni culturali, civili, religiose, a partire da quelle in data odierna col grande pontificale al santuario con Monsignor Vincenzo Paglia, però quello che abbiamo cercato di tenere insieme è stato proprio questo punto valoriale di cui dicevo, non soltanto i baci perugina, non soltanto i bigliettini d'amore o lo scambio consumistico del mazzo di fiori, che comunque è sempre un bel pensiero e quando un innamorato riceve un fiore è contento, ma anche la riflessione sui contenuti profondi. Per esempio, nel mese di San Valentino, domenica dopo domenica, si celebra il pontificale per la festa della promessa, si celebra il pontificale per la festa delle nozze d'argento, delle nozze d'oro, delle nozze di diamante. Insomma, un impegno verso la famiglia. Ecco, un impegno verso la famiglia, ma nello stesso tempo, quest'anno per esempio abbiamo conferito il premio San Valentino d'oro a Ingrid Betancourt. In passato lo abbiamo conferito sempre con i premiati presenti a San Valentino a personaggi come Mikhail Gorbaciov, come Ibrahim Rugova. Insomma, come lei Kerry dice Kennedy. Una festa importante. Io la ringrazio, Sindaco, e soprattutto, a parte buon San Valentino, però ci ha riportato un pochettino nel tunnel di quello che è un po', lei ha detto, il consumismo, no, infatti poi Baci Perugina, Perugia, Terni, sempre un po' in contrasto, è brutto che i ternani mangino i Baci Perugina. Ovviamente scherzo. Lei ha dato qui, diciamo, come dire, questa è un po' una caricatura del passato, certo. L'Umbria è un posto dove si sta bene dappertutto, dappertutto, vabbè, lo sappiamo, era semplicemente uno scherzo. Professor Corvino, in chiusura proprio una battuta, e una battuta a Don Filippo, però avete 30 secondi. Che è normale che appunto l'industria si impossessi, no, di una tradizione precedente, e che a sua volta poi la restituisca al mercato, appunto come diceva il sindaco, cioè no, non vorremmo che San Valentino diventasse solo un fatto di mercato di Baci Perugina, però è normale, l'abbiamo visto con San Nicola che poi diventa Santa Claus, lo vediamo con, che ne so, con country nel campo musicale, il country music americano, cioè, però ciò non toglie, e volevo solo ribadire questo appunto a Don Filippo. E quando appunto prima citavo Chaucer nel Parliament of Fools parla proprio di San Valentino, il giorno di San Valentino, quando si trova la compagna. Quindi vuol dire che come tradizione di San Valentino legato agli innamorati è abbastanza antica. E poi si sono sovrapposte varie stratificazioni. Allora, Don Filippo, proprio 30 secondi. Negli ultimi 10 anni è diventato un'occasione di riflessione sulla famiglia, cioè sulla struttura sociale più profondamente in crisi in questo nostro confuso Occidente. Se le cose, diciamo così, antiche, che magari ci giungono attraverso atti notarili o la letteratura o attraverso l'interesse dei giapponesi per la cioccolata, ci fanno così riflettere sulle cose di oggi, ben vengono anche le cose di oggi. Noi auguriamo a tutte le nostre radioascoltatrici, ma anche ai nostri radioascoltatori, oggi di trovare l'anima gemella per fare una famiglia, oppure anche per stare insieme in letizia, come si dice. La quota rosa. La prostituzione, si sa, è una piaga che assilla l'umanità, lo sappiamo, c'è stato il disegno di legge di Mara Carfagna, del ministro delle pari opportunità, che attualmente è in discussione in Parlamento, ma vogliamo vedere anche la prostituzione da dentro attraverso una testimonianza a teatro, che però scopriremo essere una testimonianza anche nella vita reale. Sentiamo un attimo che cosa direbbe oggi una prostituta, che cosa ci direbbe a noi, che cosa sono, quali sono i suoi pensieri. Campane, sempre campane. Roma è piena di campane, la colonna sonora di Roma. Sì, è vero, le campane stanno in tutto il mondo, ma come quelle di Roma non ce n'è da nessun'altra parte. Se io fossi sindaco di Roma, le nominerei patrimonio dell'umanità e gli dedicherei una piazza, oppure una via. Via delle campanelle! E suona bene, no? E che male ci sarebbe? C'è via delle zoccolette, ci può essere via delle campanelle. Inventerei anche una festa, la festa delle campanelle. Sai che bella festa? Tutte le campane a turno che suonano, San Pietro, San Giovanni, San Luigi dei Francesi. Sai che musica? Sai che palle? No, questa Noè, campane ha morto, qualche disgraziato che ha finito di vivere. Beh, comunque è inutile stare a sognare, eh? A me sindaco non mi faranno mai. Come, perché? Ma hai sentito come parlo? Visto come mi vesto? Qualcuno voterebbe mai una come me? Ah sì, forse sì, eh. Avete votato Cicciolina. Sì, però Parlamento non sindaco. Poi te lo immagini, un sindaco di Roma donna e per di più extracomunitario. Sì, un sindaco qualunque lo fanno, ma pure rumeno. E fanno bene, eh. Anche io, se dovessi votare un sindaco, lo vorrei italiano, con una bella faccia pulita, ben pettinato, ben vestito, anche con le maniche di camicia, però sempre italiano. Extracomunitari, mai. Non c'è da fidarsi. Extracomunitari sono o neri, o io dico subito, per me neri sono filippini, pakistani, cingalesi, bengalesi, tutti quelli che vengono qui a rompere, oppure slavi. E quelli sono peggio di tutti. Ladri gli uomini, serva puttana alla donna. È vero? Ah, come dite? Sono razzista? Cattiva? Lo so, ma non è colpa mia. Io non sono io a essere razzista e cattiva. È la vita a essere cattiva. o no? E allora abbiamo sentito Federica Bern che ci è venuta a trovare nel viaggio di Felicia, un monologo teatrale di Claudio Pallottini e che andrà al Piccolo Teatro Libero di Brescia il 27 febbraio, la regia di Marco Simeoli. Federica, chi è Felicia? Come vi è venuto in mente questo spettacolo? Una prostituta romena che vive in strada a Roma, sente le campane, quindi ha tutto un suo mondo interiore. Sì, esatto. Questo spettacolo quanto dura? Che cosa vuole denunciare? E come viene accolto dal pubblico italiano in un momento in cui si parla molto spesso della piaga della prostituzione per strada, ma anche in un momento in cui c'è molta xenofobia? Ecco, sì, esatto. Hai nominato le tematiche, diciamo, che vengono trattate. Il viaggio di Felicia è un piccolo monologo di 55 minuti in cui appunto seguiamo le vicende di questa ragazza Felicia, una ragazza rumena dell'est, che però appunto potrebbe essere di una qualunque altra nazione dell'est, proprio ambientata nel momento in cui ancora la Romania non è entrata in Europa, diciamo in quel momento in cui avere il permesso di soggiorno è fondamentale. Il suo punto di arrivo, quello che lei vuole realizzare, è la perfetta integrazione. Lei vuole diventare una cittadina italiana a tutti gli effetti e il suo sogno è di trovare lavoro, cioè diciamo quello che è un po' il sogno di tutti, il punto di partenza, che poi da quando entri in Italia, soprattutto per i clandestini, è più un punto d'arrivo che un punto di partenza. Ed è il viaggio, diciamo così, in senso metaforico ma anche reale, è una serie di vicissitudini che accadono a questa ragazza per arrivare a coronare il suo sogno, che è una cosa molto semplice, però lei venendo dall'est ha visto la televisione, diciamo nella sua mente viaggiano tante fantasie, lei è una molto solare, molto una persona candida, quasi pura, diciamo, e questo favorisce l'aspetto ironico, fantasioso e poetico di questo monologo, che dove possiamo trovare sì una riflessione anche profonda sul fatto che gli immigrati vengono accolti qui con una certa diffidenza, con un po' di paura, con tanti pregiudizi, anche si scontrano con una burocrazia pesantissima, per cui tutto diventa veramente il triplo più difficile di quanto uno se l'aspetti. Tu sei andata però poi per strada a parlare con le prostitute. Qual è stata la tua impressione, qual è stata la tua testimonianza? Allora, io sono andata con la videomaker Rossella Romano e anche con un assistente, cercando più che altro di avvicinarmi a queste ragazze. È stato impossibile parlarci perché, diciamo, loro all'inizio erano molto diffidenti, quindi abbiamo seguito certi focherelli che abbiamo visto sulla Salaria, dove loro cercano di riscaldarsi, però ad ogni nostro tentativo, diciamo, siamo stati allontanati. Al di là delle piccole lucentezze che si trovano nei vestiti, nelle paillette che cercano di indossare, dietro c'è sempre una grande insomma miseria umana, purtroppo, e a volte mi dispiace dirlo, però qua si tratta veramente spesso di schiavitù, quindi alla fine sì. No, noi ne siamo convinti, lo denunciamo sempre alla Quota Rosa, che è una tratta degli schiavi, perché poi queste ragazze vengono in Italia perché insomma dietro ci sta un racket pazzesco, quindi diciamo appunto, quella è la piaga più grossa. Attualmente la legge sta cambiando, le prostitute verranno tolte dalla strada, secondo te qual è la tua opinione dopo che hai fatto questo viaggio? Allora, io sinceramente posso dire che se uno non vede le prostitute per strada si sente in certo senso un po' consolato, quindi da un certo punto di vista va bene che non vedo più le prostitute per strada, però mi sembra più che altro un palliativo questo qui, nel senso che poi alla fine è dietro che bisogna vedere che cosa c'è e curare, diciamo, questo male dalla radice, ecco. È sponsorizzata da un racket di malavitosi, esatto, dove c'è veramente una vera e propria tratta di esseri umani. Sì, e poi trovo scandaloso che facciano pagare la multa anche alle prostitute, che in realtà sono delle povere vittime, quindi del racket, ecco, questo sì. Sì. Ricordiamo al Piccolo Teatro Libero di Brescia il 27 febbraio, questo spettacolo però intanto è andato già a Spoleto, sì, è stato a Roma, lo riproporrà il prossimo anno anche. Esatto, nella prossima stagione sicuramente. Stagione. Che cosa è successo? Perché è uno spettacolo interpretato da una donna che parla di donne, però scritto poi da un uomo, Claudio Pallottini. Sì, scritto da un uomo nel senso che questo testo lui ce l'aveva nel cassetto e all'inizio era scritto per un'immigrata di colore. Poi invece io ho chiamato l'autore e conoscevo questo testo e ho detto, beh, mi piacerebbe invece lavorare con te sull'immigrazione, però mi piacerebbe affrontare il discorso delle ragazze dell'Est. E quindi insieme abbiamo ripreso questo testo e insieme ci abbiamo lavorato e lui lo ha adattato su questa intuizione che a me come attrice mi aveva venuta e appunto insieme quindi la... Allora torniamo con Felicia a sentire qual è il suo sogno. Io, mio marito italiano, i nostri figli italiani come il loro papà, stiamo in una bellissima casetta bianca in mezzo alla campagna in fiore. Io, mio marito italiano, intingiamo un bel biscotto italiano fragrante che alza un'onda bianca enorme. I nostri bambini italiani ci guardano e ridono felici. I soldi non sono un problema. Ho il portafoglio firmato Armani pieno di carte di credito e la macchina che sto guidando l'ho presa a tasso zero e la comincio a pagare quando voglio. Vado da Sean Connery, che nessuno riconosce, e gli do un passaggio. Poveraccio, non lo vuole più nessuno. A me sì, mi vogliono tutti. Sono la madrina della festa e sbatto la porta in faccia a George Clooney, che non ha portato il martini. No martini, no party. Sto a casa, sono un po' triste. Mi squilla il mio ultimo minuscolo modello di cellulare. Sono le mie amiche in barca sul Mediterraneo. Mi annunciano che vengono a prendermi. Dove e quando, dico io? Appare un SMS. Siamo sotto casa tua. Apro la porta e davanti al Colosseo c'è una barca a vela e dentro tanti amici che ridono e sono felici. In 5 minuti, solo 5 vedrai, mi portano in Romania. Mia madre è bellissima e le mie sorelle camminano tutte su tacchi a spillo che sembrano Eva Erzigova. Indossano un meraviglioso Wonder Bra e sono sicura cure ed efficienti anche in quei giorni. Ma la cosa più bella è che sono tutte felici. È bello vivere in una valle verde e fare colazione dentro a un mulino. Piccolo Teatro Libero di Brescia, 27 febbraio, Federica Bern nel Viaggio di Felicia. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quota rosa @radio24.it. Un buon San Valentino da Elisabetta Fiorito.